Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Archer sentì come se il cuore cessasse di battergli. Intanto sua moglie lo guardava con gli occhi che le brillavano per la vittoria. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi il secondo tempo de L'età dell'innocenza di Martin Scorsese. Newland Archer, ricco avvocato nella New York del XIX secolo, è in procinto di sposare la giovane aristocratica May Welland. Di fronte al turbamento scatenato dall'incontro con la contessa Olenska, Archer decide di affrettare le nozze già decise, rinunciando al vero amore e restando imprigionato nelle dinamiche rigide e stantie dell'alta società newyorkese. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Il giorno prima del matrimonio tra Archer Newland e May Welland, la contessa Olenska inviò le sue scuse. Non poteva partecipare perché era in viaggio con una zia, ma donò ai due sposi un prezioso e antico merletto. Partirono in viaggio di nozze per le mete che May non aveva mai visto. Prima Londra, poi Parigi, dove visitarono la città e ogni tanto cenarono fuori ospiti da amici di famiglia. Ma sentite, stavate dicendo che siete stato consigliato da Maupassant. Ah, sì? Sfortunatamente mi ha consigliato di non scrivere. Archer era tornato a tutte le sue vecchie idee sul matrimonio così come le aveva ereditate. Era meno complicato uniformarsi alla tradizione e trattare May esattamente come i suoi amici trattavano le loro mogli. Era inutile cercare di emancipare una moglie che non supponeva neanche lontanamente di non essere libera. Dopo cena, sulla carrozza, provò a dire: «È stata un'eccellente conversazione, una persona non comune. Abbiamo parlato di libri e di molte altre cose. Pensavo di invitarlo a cena. Quel signore francese? Sì. Non ho avuto occasione di discorrere molto con lui, ma non era un poco ordinario? Ordinario? Io l'ho trovato arguto. Suppongo che non potrei giudicare se era intelligente, ma... Allora non lo inviterò a cena. Con un lampo di agghiacciante intuito, si accorse che in futuro numerosi problemi si sarebbero risolti in modo altrettanto negativo per lui. Quanto al momentaneo attacco di pazzia che lo aveva assalito la vigilia del matrimonio, si era sforzato di considerarlo l'ultimo dei suoi esperimenti che aveva accantonato. Il piccolo prato ben curato della residenza estiva dei Beaufort, dove si riuniva in agosto il circolo di tiro con l'arco, si protendeva armoniosamente verso la grande distesa lucente del mare. Su un lato del prato erano stati sistemati dei bersagli. May Welland partecipò alla gara di tiro e, come una vera dea Diana, la vinse al primo colpo. Lawrence Leffertz e Julius Beaufort erano pronti a commentare. È molto abile. Sì, ma è l'unico bersaglio che è in grado di colpire. Andarono a trovare la nonna, che aveva casa vicino a loro, per mostrarle la spilla ricevuta in premio da May. Lascia di stucco, veramente. È Julius Beaufort che provvede ai premi del circolo, non è vero? È proprio da lui, naturalmente. Diventerà un cimelio di famiglia, mia cara. Dovresti lasciarlo alla vostra figlia maggiore. Che succede? Non volete avere delle femmine, solo maschi? Come? Non posso dire neanche questo. Guardatela come arrossisce. Ellen, sei di sopra. È venuta da Portsmouth per passare la giornata con me. Oh, è così testarda, non vuole rimanere qui a Newport. Insiste nel voler tornare da qui, come si chiamano? Blenker. Oh, ma ho rinunciato, ho smesso di discutere con i giovani 50 anni fa. Ellen! Mi spiace, signora, la signorina non è in casa. Oh, se n'è andata. L'ho vista scendere verso la spiaggia. Corri giù e riportala qui da bravo nipote. May e io intanto spettegoleremo su Julius Beaufort. Archer si alzò come se stesse sognando. Aveva sentito pronunciare il nome della contessa Olenska abbastanza spesso durante l'anno e mezzo da quando si erano visti l'ultima volta. Ed era abbastanza al corrente di quanto le era accaduto in quel lasso di tempo. Ma aveva prestato ascolto a quei racconti e alle diverse voci contraddittorie su di lei con il distacco con cui si ascoltano le testimonianze che riguardano qualcuno morto da lungo tempo. Quando la nonna l'aveva nominata, Ellen Olenska era di nuovo diventata per lui una presenza viva. La strada verso la spiaggia scendeva dall'altura fino a un ponticello di legno sul margine della banchina. Archer vide una signora appoggiata alla ringhiera alla fine del pontile che dava le spalle alla spiaggia. La visione di un lungo tramonto si stava frantumando in migliaia di fuochi, il cui splendore colpiva in pieno la vela di una imbarcazione mentre si faceva strada attraverso il canale e la spiaggia. Si diede una sola possibilità. Se non si fosse girata prima che la barca doppiasse il faro di Lime Rock, sarebbe tornato indietro. La barca filava via sull'onda della marea rientrante. Scivolò davanti al Lime Rock e oltrepassò la torretta della lanterna. Archer attese fino a quando una larga striscia d'acqua brillò tra l'ultima scogliera dell'isola e la poppa del battello. Ma la figura di donna non si era ancora mossa. Newland si girò, risalì la collina e tornò dalla moglie May. Mi dispiace che tu non l'abbia trovata, ma ho sentito che è così cambiata. Cambiata? Oh, è così indifferente con i suoi vecchi amici. Passa l'estate a Portsmouth. Si trasferisce a Washington. Qualche tempo dopo, Archer scoprì che Ellen era stata chiamata a Boston. Decise di sfruttare un'occasione di lavoro e corse in quella città anche lui. Non fece fatica a trovarla. Cominciò ad attraversare il parco pubblico e la vide seduta sulla prima panchina, sotto un albero. Oh. Ellen, sono qui per affari. Veramente sono appena arrivato. Avete cambiato pettinatura? Perché non ho con me la mia cameriera, è rimasta a Portsmouth. Io resterò qui solo 2 giorni e mi sembrava inutile. State viaggiando da sola? Sì, perché? Credete che sia un po' pericoloso? Beh, non è convenzionale. No, suppongo di no. Ho appena fatto una cosa ancora meno convenzionale. Ho rifiutato di riprendere del denaro che mi apparteneva. Sono venuti a farvi un'offerta. Quali erano le condizioni? Ho rifiutato. Ditemi le condizioni. Niente di intollerabile, in realtà. Solo di sedere alla sua tavola di tanto in tanto. E vuole riavervi a qualunque prezzo? Beh, diciamo a un prezzo considerevole. Almeno è considerevole per me. Dunque siete venuta per vederlo? Mio marito? Qui? No, per carità. Ha mandato un'altra persona. Il suo segretario? Sì. È ancora qui, per la verità. Ha insistito per aspettare nel caso io cambiassi idea. Tu non sei cambiato, Newland. Ero cambiato fin quando non ti ho rivista. Ti prego, non... Concedimi solo questo giorno. Dirò quello che vorrai oppure niente. Non parlerò a meno che tu non me lo chieda. Voglio solo passare del tempo con te. Voglio portarti via da quell'uomo. Deve tornare all'hotel. Alle 11. Allora solo dobbiamo andarcene. Dovrò lasciare un biglietto in albergo. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook. E in podcast su radio24.it. Mentre Archer attendeva fuori dall'albergo che Madame Olenska lasciasse il suo biglietto, nell'andirivieni di gente che entrava e usciva, rimase colpito da un volto che non riuscì a collegare agli altri. Rimase per un attimo sospeso a un sottile filo della memoria che però si spezzò e fluttuò via con il volto che scompariva e che evidentemente apparteneva a qualche uomo d'affari straniero che aveva visto chissà quando. Poi la contessa uscì e si incamminarono per restare un po' da soli. Perché non sei venuto sulla spiaggia quel giorno dalla nonna? Perché non ti sei voltata. Avevo giurato che non ti avrei chiamato se non ti giravi. Ma io non mi sono girata di proposito. Lo sapevi? Ho riconosciuto la carrozza quando siete arrivati. E così sono scesa alla spiaggia. Per fuggire da me il più lontano possibile. Il più lontano, sì. Beh, come vedi, è inutile. È meglio affrontarsi, non credi? Voglio essere sincera con te. Sincera? Non è per questo che hai sempre ammirato Julius Beaufort. Era il più sincero tra tutti noi, non è vero? Noi siamo senza carattere. Qui non c'è colore, non c'è varietà. Non so capire perché non te ne torni in Europa. Penso che sia per causa tua. Mia? Io sono l'uomo che ha sposato una donna perché un'altra gli ha chiesto di farlo. Avevi promesso di non dire cose del genere oggi. Non posso mantenere la promessa. È May, tua moglie. I suoi sentimenti non contano. Se vuoi usare il mio matrimonio come una specie di nostra vittoria, allora non c'è proprio ragione perché tu non te ne debba andare. Tu mi hai fatto intravedere i primi lampi di vita vera e poi mi hai detto di continuare a viverne una falsa. Nessuno può resistere a tanto. That you loved me still the same. That you loved me, you loved me still the same. La mattina seguente, destandosi alla realtà di una calda e ventosa giornata di settembre a New York, si ritrovò tra la folla. Improvvisamente uno dei volti si staccò dagli altri e si avvicinò. Il signor Archer, vero? Sì. Mi chiamo Rivière. Abbiamo cenato insieme a Parigi l'anno scorso. Ah sì, scusatemi, non vi avevo riconosciuto. Ah, non fa niente, io ero avvantaggiato. Vi ho già visto a Boston ieri mattina. Vedete, sono venuto qui nell'interesse del conte Olenski perché ritenevo in assoluta buona fede che sarebbe tornata da lui. Perdonatemi, messie, ma io davvero non capisco a quale scopo siate venuto da me. È cambiata, monsieur. La conoscevate prima? La vedevo a casa di suo marito, sì. Beh, il conte non avrebbe affidato questo incarico ad un estraneo. Questo cambiamento di cui parlavate? Oh, sarà stato perché la vedevo per la prima volta come davvero una americana. Lei si è sposata in buona fede. Una buona fede che il conte non condivideva, che non poteva comprendere. Così la fiducia di lei è andata... Oh, detruita? Frantumata. Distrutta. Distrutta. Tornare in Europa significherebbe una vita alquanto agiata. È un sacrificio considerevole. E nessuna speranza, credo. Naturalmente adempirò all'impegno preso con il conte. E mi incontrerò con la famiglia. Riferirò loro tutto ciò che egli propone e desidera per la contessa. Ma vorrei chiedervi di esercitare la vostra influenza su di loro. Vi supplico, monsieur, non lasciatela tornare. Erano trascorsi 4 mesi da quel giorno d'estate che lui e Madame Olenska avevano passato insieme e da allora lui non l'aveva più vista. Sapeva che era tornata a Washington. Lui le aveva scritto una volta, poche parole per chiederle quando si sarebbero incontrati nuovamente. E Ellen aveva risposto ancora più succintamente. Non ancora. A cena, sua moglie e sua sorella, le rispettive madri e Sillerton Jackson cenavano tranquillamente. Al centro della discussione c'era il signor Beaufort. La discussione proseguì tra Archer e Sillerton Jackson anche dopo cena. Beaufort tratta i suoi affari senza alcun tatto ed ora che stanno andando a rotoli è praticamente rovinato. Rovinato? È veramente così grave? Più grave di quanto si possa immaginare. La maggior parte di quelli che conosciamo ne risentirà in un modo o nell'altro. Ah, già. Naturalmente è molto difficile per Regina ed è un peccato, un vero peccato che la contessa Olenska abbia rifiutato l'offerta del marito. Perché in nome del cielo? Beh, per dirla senza mezzi termini, di che cosa potrà vivere in adesso? In che senso? Voglio dire che ora Beaufort... Che diavolo vorreste dire, signore? Ha investito quasi tutto il suo denaro con Beaufort e la rendita che riceve dalla famiglia è stata ridotta in Sono modo... Sono certo che le resterà qualcosa. Sì, molto poco, credo. Quello che è rimarrà dopo aver sostenuto ulteriori debiti. So che la famiglia ha ricevuto con grande interesse Monsieur Rivière ed ha valutato l'offerta del conte molto attentamente. Se preferite che sia l'amante di Beaufort piuttosto che la moglie di un uomo rispettabile, avete scelto il sistema migliore. Non tornerà indietro. È questa la vostra opinione, eh? Beh, senza dubbio voi lo saprete. Suppongo che potrebbe ancora intenerire Catherine Mingott, l'unica che può concederle qualsiasi rendita, ma il resto della famiglia non ha alcun interesse particolare a tenerla qui. Lasceranno semplicemente che trovi il suo ambiente. Tornati a casa, prima di andare a dormire, decise di parlare con May, impegnata a far funzionare una lampada che faceva fumo. Può darsi che io debba andare a Washington per qualche giorno. Quando? Domani, mi dispiace, avrei dovuto dirtelo prima. Ah, per lavoro? Per lavoro, certo. C'è un processo per un brevetto davanti alla Corte Suprema. Ho avuto ora gli incartamenti da Letterblair. Sembrava che volesse andare lui. Non importa, poi... è troppo complicato. Ho già abbastanza problemi con questa lampada. Lascia fare a me. Ma il cambiamento ti farà bene. E devi assolutamente andare a trovare Ellen. Lo disse guardandolo fisso negli occhi. E quello parve ad Archer un messaggio, come se sapesse della discussione con Jackson o persino qualcos'altro. Il dialogo venne interrotto dalla cameriera che portava un messaggio. La nonna Mingott aveva avuto un ictus. La nonna ha avuto un colpo apoplettico. Un colpo apoplettico? Ridicolo! L'ho già detto a tutti, sono stati solo gli eccessi del giorno del ringraziamento. Se possiamo essere d'aiuto in qualche modo... Beh, la mia Ellen sta arrivando. Ho chiesto espressamente di lei. Arriverà con il treno del pomeriggio, se tu potessi andarla a prendere. Certamente, se May manderà la carrozza, io prenderò il traghetto. Ah, bene. Benissimo, grazie. Ecco, hai visto, nonna? È già tutto sistemato. Grazie, cara. Dio ti benedica. Non volevo preoccupare la nonna, ma come puoi andare alla stazione a prendere Ellen e poi portarla qui se devi andare a Washington oggi pomeriggio? Non parto più, l'udienza è stata annullata, rinviata. Me l'ha detto Letterblair stamattina. Rinviata? Che strano. Anche la mamma ha ricevuto un biglietto da parte sua. Era preoccupato per la nonna, ma doveva andare via. Discuteva un importante caso di un brevetto alla Corte Suprema. Anche tu andavi per un brevetto, vero? Visto che nessuno dell'ufficio può andarci, Letterblair ha deciso di andare da solo. Allora non è stato rinviato. No, ma la mia partenza sì. Si allontanò in fretta attraversando la Union Square e mentre andava a prendere Ellen ripeteva a se stesso: ci vogliono almeno 2 ore da Jersey City fino a casa della vecchia signora Mingott. Ci vogliono almeno 2 ore, se non di più. Il treno si avvicinò con fragore metallico e gemiti ed entrò lentamente nella stazione. Archer avanzò facendosi largo fra la folla e trovò Ellen. La rassicurò subito che la nonna stava meglio e salirono sulla carrozza che aveva mandato May. Quasi non ricordavo più com'eri. Non te lo ricordavi più? Voglio dire, insomma, ogni volta è lo stesso. Ogni volta tu mi prendi come sempre. Sì, lo so. È così anche per me. Si baciarono appassionatamente, ma quando una luce colpì il finestrino della carrozza, lei si ritrasse. Ellen, non possiamo restare così, non può durare. Io credo che dovremmo guardare la realtà e non i suoi. Io voglio soltanto che stiamo insieme. Non posso essere tua moglie, Newland. Pensi che dovrei vivere con te come tua amante? Non so come, ma voglio fuggire con te. Trovare un mondo dove parole come quella non esistono. Oh, mio tesoro. Dov'è questo paese? Tu ci sei mai stato? Perché? Perché ci fermiamo? Non è la casa della nonna? No. Avevi ragione, non sarei dovuto venire oggi. Email audiogrammi @radio24.it. Quella sera dopo cena, lui e May salirono in biblioteca per prendere il caffè. Archer si accese un sigaro e tirò giù un volume di storia. Cosa stai leggendo? È un libro sul Giappone. Perché? Non lo so perché è un paese diverso. Una volta leggevi poesie. Era così bello quando me le leggevi. Mentre May stava così seduta, con la lampada che le illuminava la fronte, Newland si disse che tutta la carica poetica e romantica l'aveva esaurita durante il breve periodo del loro fidanzamento. Ellen, devo vederti. Non sapevo quando saresti ripartita. Io Non sto partendo, la nonna mi ha chiesto di restare e occuparmi di lei. Bene, allora possiamo parlare adesso. Mi aspettano da Regina Beaufort, la nonna mi ha prestato la carrozza. Lo so, la nonna dice che Julius Beaufort è un farabutto, ma lo è anche mio marito e la famiglia vuole che torni da lui. Solo la nonna capisce, lei ha perfino provveduto alla mia rendita. Devo vederti in un posto dove possiamo essere soli. A New York? Da soli, un posto in cui stare soli. Il museo d'arte nel parco domani alle 2:30. Aspetterò all'ingresso. Quel luogo appartato era tutto per loro. Seduti sul divano che circondava il radiatore a vapore nel centro della sala, osservarono in silenzio le teche di vetro contenenti i reperti di Ilio. Sei venuta a New York perché avevi paura? Paura? Che io venissi a Washington. Pensavo di essere più al sicuro. Al sicuro da me? Ellen, al sicuro dall'amare me? Devo venire da te una volta e poi andarmene. Vieni da me una volta, allora. Quando? Domani. Dopodomani. Tornò a casa preparando una chiave da mandare alla contessa per potersi vedere quest'ultima volta. Se gli si fosse concessa, forse avrebbe avuto la speranza di trattenerla in un legame, di non farla andar via. Ormai era pieno inverno e, come gli anni precedenti, a teatro andava in scena il Faust. Archer era ancora nel palco del circolo. Di lì osservò quello dove era seduta ora la moglie, che per l'occasione aveva indossato il suo vestito da sposa, come a New York si usa fare per tradizione entro i 2 anni dal matrimonio. Era la stessa scena a cui aveva assistito 2 anni prima, la sera del suo primo incontro con Ellen Olenska. Si era quasi aspettato che lei apparisse di nuovo nel palco della vecchia signora Mingott, ma questo restò vuoto e lui rimase seduto immobile a fissarlo. Raggiunse il palco della moglie e le chiese di accompagnarlo perché aveva un gran mal di testa. Tornarono a casa, si sistemò in biblioteca e le chiese di parlare. May sedeva in silenzio senza che le sue ciglia si muovessero o fremessero. Era ancora molto pallida, le accadeva spesso in quei giorni, ma il suo volto presentava una strana tranquillità di espressione che sembrava tratta da qualche nascosta sorgente interiore. Non dovresti riposare? Il mal di testa non è così grave. E c'è una cosa importante che devo dirti immediatamente. E che riguarda me. Madame Olenska. Oh, perché dovremmo parlare di Ellen stasera? Perché avrei dovuto parlartene prima. Ne vale davvero la pena, caro? So che a volte sono stata ingiusta con lei, ma forse lo siamo stati tutti. Tu l'hai compresa meglio di chiunque altro, immagino, ma ha davvero importanza ora che è tutto finito. Come sarebbe finito? Ma sì, dal momento che presto tornerai in Europa. La nonna ha provato e capisce. È delusa, naturalmente, ma ha fatto in modo che Ellen fosse economicamente indipendente dal conte. Io credevo che te l'avessero detto allo studio. È impossibile. Impossibile? Avrebbe potuto restare qui con il denaro della nonna, ma credo che dopo tutto lei abbia rinunciato a noi. Come fai a saperlo? Me l'ha detto Ellen, te l'ho detto, l'ho vista a casa della nonna ieri. E lei ti ha detto queste cose ieri? No, mi ha mandato un biglietto oggi pomeriggio. Vuoi vederlo? Mia cara May, finalmente sono riuscita a far capire alla nonna che la mia visita non poteva essere che una visita. E lei è stata gentile e generosa come sempre. Non poteva essere altro che una visita. E lei è stata gentile e generosa come sempre. Ora ha capito che se torno in Europa devo vivere da sola. Vado subito a Washington a preparare le mie cose. Mi imbarco la prossima settimana. Devi essere buona con la nonna quando non ci sarò, come lo sei sempre stata con me. Se qualcuno dei miei amici volesse esortarmi a cambiare idea, ti prego, di loro che sarebbe del tutto inutile. Ti prego, di loro che sarebbe del tutto inutile. Come disse con aria sorridente la signora Archer alla signora Welland, dare la prima cena importante era per una giovane coppia un grande avvenimento. Era inoltre considerato un vero e proprio successo il fatto che i van der Leyden, su preghiera di May, si sarebbero trattenuti di più per partecipare alla cena d'addio da lei offerta proprio in onore della contessa Olenska. Dato che il viaggio della contessa Olenska alla volta dell'Europa era stato fissato, non c'era niente al mondo che i Welland e i Mingott non avrebbero fatto per esprimere alla contessa il loro immutabile affetto. In un grande lampo improvviso, formato da tanti squarci di luce, Archer fu colto dal pensiero che per tutta quella gente lui e Madame Olenska erano amanti. Amanti nel vero senso che a questa parola attribuivano in particolare i vocabolari stranieri. E capì per la prima volta che anche sua moglie era della stessa opinione. Capì che, ricorrendo a mezzi che gli erano ancora ignoti, era stata ottenuta la separazione tra lui e la compagna della sua colpa. Colse il bagliore del trionfo negli occhi di sua moglie e per la prima volta capì che anche lei ne era convinta come gli altri. Andati via tutti gli ospiti, Archer stava fumando in biblioteca e May si sporse dalla porta. È andato tutto magnificamente, vero? Sì. Posso entrare a parlarne un attimo con te? Certamente. C'è qualcosa di cui ero piuttosto ansioso di parlarti e che ho cercato di dirti anche l'altra sera. Oh, sì, caro. Qualcosa che riguarda te. Che riguarda me, sì. Credo che sarebbe meglio per tutti se mi concedessi una pausa di riflessione. Io vorrei partire, viaggiare. In Europa o... L'India o il Giappone. Temo che non potrai, caro. A meno che non mi porti con te. Sempre se i medici me lo permetteranno, ma temo che non sarà possibile. Newland, io sono sicura di una cosa da stamattina e non vedevo l'ora di dirtela. Oh, mia cara. Non avevi indovinato? No. Voglio dire, naturalmente lo speravo, ma... L'hai detto a qualcun altro? Solo alla mamma e a tua madre. E ad Ellen. Ti dispiace che gliel'abbia detto, Newland? Dispiacermi? E perché mai? È stato 2 settimane fa, vero? Credevo che avessi detto che non ne eri sicura fino ad oggi. Il loro dialogo era avvenuto nella loro biblioteca sulla 39esima strada est. Da lì in avanti, quella era stata la stanza in cui erano successe molte delle cose più importanti della sua vita. Era lì che lui e May avevano discusso il futuro di tutti i loro figli, assecondando Ted, il maggiore, che voleva studiare architettura. Era stato un marito fedele e quando May era morta improvvisamente, uccisa da una polmonite infettiva dopo aver curato il loro ultimo genito, l'aveva pianta sinceramente. Al suo 57esimo anno d'età, guardandosi intorno, aveva rispetto per il proprio passato e lo rimpiangeva. Sì, pronto? Papà? Sei tu, Ted! Papà, ho quasi finito qui, ma il mio cliente vuole che veda dei giardini prima di fare il progetto. Sembra interessante, dove? In Europa. Santo cielo! Salperò mercoledì prossimo con il Mauritania. Come, non verrai al matrimonio? Credo che Annie mi aspetterà. Tornerò il primo e il nostro matrimonio non è che il 5. Ah, mi sorprende che ricordi la data. Beh, speravo che mi avresti accompagnato. Cosa? Ho bisogno che mi ricordi le cose fondamentali. Che ne dici? Un ultimo viaggetto da padre e figlio. Ted, apprezzo il tuo invito, ma... Fantastico! Chiami tu l'agenzia Canard domattina. Mi ci vorrà fino a mercoledì prossimo solo per cancellare non tutti i miei... Non voglio ascoltarti, papà. L'Atlantico ci chiama. Archer si fece convincere e seguì il figlio Ted a Parigi. Io vado a Versailles con Tourneur. Vuoi venire con noi? Pensavo di andare al Louvre. Allora ci vediamo lì più tardi. La contessa Olenska ci aspetta per le 5:30. Cosa? Ah, non te l'ho detto. Annie mi ha fatto giurare di fare 3 cose a Parigi. Portarle gli ultimi spartiti di Debussy, andare alla Grand Guignol e vedere Madame Olenska. Sai, è stata molto gentile con Annie quando il signor Beaufort l'ha mandata alla Sorbona. Non era amica della prima moglie del signor Beaufort? L'ha detto la signora Beaufort, credo. In ogni caso, ho chiamato la contessa stamattina presto. Mi sono presentato come suo cugino. E le ho chiesto... Le hai detto che ero qui, Ted? Ma certo! Perché no? Deve essere bella. Lo era? Bella? Non lo so. Era diversa. Ogni volta che aveva pensato a Ellen Olenska, lo aveva fatto in modo sereno, come si potrebbe pensare a una donna immaginaria amata, al personaggio di un libro o di un quadro. Era divenuta l'immagine composita di tutto ciò che gli era mancato. Il signor Beaufort se la passava davvero tanto male quando si è risposato. Nessuno voleva dargli credito. Forse perché ne aveva già avuto tanto. Considerando come sono andate le cose e tutto il tempo che è passato, non capisco come fai a resistere. Beh, all'inizio ho avuto delle resistenze al tuo matrimonio, come ti ho detto. No. Resistere a vedere la donna per la quale stavi per piantare tutto. ma non l'hai fatto. Ma la mamma disse che saremmo stati al sicuro. Sì, prima di morire chiese di vedermi da solo, ricordi? Disse che sapeva che con te eravamo al sicuro e lo saremmo sempre stati. Perché una volta che lei te lo chiese, rinunciasti alla cosa che più desideravi. Arrivarono davanti alla casa dove aveva vissuto Ellen per tutti quegli anni. Il portiere dice che è al terzo piano. Deve essere quello con le tende. Sono quasi le 6. Credo che mi siederò un attimo. Vuoi dire che non vieni? Va pure, Ted. Forse ti seguirò. Cosa le devo dire? Non hai sempre qualcosa da dire? Le dirò che sei all'antica e che preferisci farti 3 piani a piedi invece di prendere l'ascensore. Di solamente che sono all'antica. Vedrai che basterà. Ora vai. Ted guardò ancora suo padre Archer e poi, con un gesto di incredulità, sparì sotto l'arco a volta dell'ingresso. Archer si sedette sulla panchina e continuò a osservare il balcone con le tende. Il sole che rifletteva dai vetri gli ricordava quel giorno in cui guardava Ellen in piedi sul pontile. La paura che l'ultima ombra della sua realtà potesse perdere i suoi contorni lo tenne inchiodato alla panchina mentre i minuti scorrevano uno dopo l'altro. Rimase seduto a lungo nell'oscurità che si infittiva, ma il suo sguardo non si staccò mai dal balcone. Alla fine, un'ultima luce brillò attraverso le finestre e un attimo dopo venne fuori un domestico, il quale tirò su le tende e chiuse le imposte. A quel punto, come se fosse stato il segnale che aspettava, Newland Archer si alzò lentamente e tornò a piedi in albergo, da solo. Testo tratto da L'età dell'innocenza di Edith Wharton, edizioni Biblioteca Universale Rizzoli. Adattamento radiofonico di Margherita Aina. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.